Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Ben ritrovati, come tutti sabato parliamo di noi genitori e dei nostri figli, ricostruiamo insomma la nostra famiglia virtuale ai microfoni di Radio 24 insieme a me il papà della trasmissione Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi Alberto andiamo a tavola. Oggi andiamo a tavola. Sarebbe quasi l'ora. Magari qualche nostro mamma e papà già è a tavola con i propri figli e magari ci tiene come sottofondo per alimentare conversazioni a pranzo. Oppure sappi che ci sono dei genitori che scaricano la trasmissione in iPod e poi la fanno ascoltare i figli per cominciare. Pensa che crudeltà. 800 24 0024, Roberto Scaltritti, regia la parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza. Parliamo di tavola, di cena a tavola, perché Alberto si è da poco pubblicata una ricerca e tu che ci ha molto incuriosito. Non ne ha parlato nessun giornale in Italia, l'abbiamo trovata noi, è una ricerca in realtà condotta dalla Columbia University e ha definito questa cosa: cenare con i propri figli in famiglia serve per renderli adulti migliori. Allora sentiamo un breve estratto, così recuperiamo tutte le informazioni utili per la nostra discussione, i messaggi al 349-238-6666 e poi ne discutiamo insieme ai nostri esperti. Le cene in famiglia fanno la differenza nella vita dei figli adolescenti. La ricerca dell'Università Columbia ha dimostrato che esiste un'associazione tra la frequenza con cui vengono effettuate le cene in famiglia e l'uso di sostanze illegali e droghe da parte dei figli adolescenti. In concreto, i ragazzi che hanno meno cene in famiglia presentano quasi un rischio doppio di consumo di marijuana e bevande alcoliche. Chi ha meno abitudine a cenare con la famiglia, quando lo fa, più frequentemente si lascia distrarre da telefonate al cellulare e ricezione e invio di SMS, oppure da videogiochi. E questo aumenta il suo rischio di mettere in atto comportamenti dannosi per la salute. Le conclusioni dello studio sono inequivocabili. Più un figlio cena con la famiglia e più la cena è libera da invasioni elettroniche, più i figli sono protetti dai comportamenti a rischio. Alberto, quindi a tavola non si invecchia, dice un proverbio, ma a tavola si dovrebbe dire, sulle basi di queste, dei risultati di questa ricerca, si cresce più forti e più preparati, meno fragili. E questa è la sfida un po' che vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori. Oggi ci servite veramente, dovete cominciare a scriverci e chiamarci per raccontare intanto come stanno andando le vostre cene in famiglia. Rimane proprio un territorio che come mamma e papà presidiate insieme ai vostri figli e dove riuscite a scrivere e narrare la vostra storia familiare. E magari un altro aspetto: quanto questo mondo esterno, TV, videogiochi, SMS, cellulari, computer sempre accesi, invade questo spazio di narrazione. Voi sentite che la cena in famiglia per voi è davvero un fattore di protezione che costruisce e crea legami con la vostra famiglia? L'avete già cominciato a fare quando i bambini erano piccoli? State perdendo i vostri figli adolescenti che a cena non vogliono più stare a tavola con voi, ma magari stare chiusi in camera loro? Ecco, quanto dura in media una vostra cena? Perché quando noi parliamo con, ad esempio, i dentisti, quando parliamo dell'igiene della bocca, i dentisti dicono lo spazzolino deve lavorare insieme a filo interdentale almeno 3 minuti per garantire un'igiene della nostra bocca. Magari c'è anche un tempo medio delle nostre cene che ha un effetto protettivo. Ma Alberto, se tu sei d'accordo, io allargherei la nostra discussione perché inserirei anche il pranzo della domenica. Certo, il pranzo della domenica con la famiglia allargata. Riuscite ancora a portare i vostri figli adolescenti magari al pranzo della domenica con i nonni? La ritenete una fase importante della vostra vita familiare? Quando è il momento di imparare a dire basta, effettivamente i nostri figli hanno altri interessi, dobbiamo lasciarli andare? Ci ha scritto Bruno e ci dice, e ci voleva la Columbia per farci capire tutto questo. Bruno, hai ragione, da una parte è chiaro che probabilmente questo è un momento che che fa bene alla famiglia e non ci vuole un'università. Ma l'aspetto interessante di questa ricerca è questo, che calcolando quanti sono gli adolescenti che fanno uso di alcol, marijuana e di sigarette, la ricerca ha proprio stabilito che meno cene fa in famiglia, più un ragazzo fa uso di queste sostanze. Quindi ha stabilito una sorta di correlazione causa-effetto tra cene in famiglia e comportamenti a rischio. E io voglio subito presentarvi il nostro esperto di oggi, il professor Piero Paolicchi, che è professore di psicologia sociale dell'Università di Pisa e autore di La variabile G, di cui ci ha molto colpito il sottotitolo: perché ci vogliono tanti genitori per non fare un imbecille. Rizzoli Editore, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Devo dire che il sottotitolo è molto intrigante. Dunque, richiama anche il titolo di un precedente libricino, una specie di pamphlet, che invece pretendeva di esporre una teoria generale dell'imbecillità. In ambedue i casi il termine non vuole affatto essere offensivo, ma ironicamente accennare a una debolezza nella capacità di analizzare criticamente la realtà esterna e quindi nella propensione maggiore a prendere per buone tutte le informazioni che arrivano appunto da certi mezzi di informazione, diventati purtroppo anche mezzi di formazione e educazione, a cui voi avete appunto anche accennato con iPod, telefonini e soprattutto aggiungerei programmi televisivi. Se quella era la diagnosi, questa diciamo è una sorta di terapia che affida il compito di contrastare questo scivolamento verso una sempre minore capacità critica o maturità, diciamo, dei figli ai genitori, intendendo per tali tutti coloro che, avendo compiuto almeno in buona parte un percorso di formazione, della propria formazione, sono in grado e dovrebbero sentirsi obbligati appunto a erogare, a generare figli nel senso non tanto ovviamente biologico, quella è una cosa oggi addirittura affidabile alle tecnologie moderne, ma piuttosto a generare persone che acquistano una sempre maggiore maturità, consapevolezza critica, capacità appunto anche di costruire insieme, avete accennato, una storia, anche insieme appunto con i genitori, con le altre generazioni, avete anche accennato a quella dei nonni, anziché avviarsi su percorsi in un certo senso chiusi dentro certi ghetti adolescenziali che poi sono spesso gestiti e orientati appunto dalle stesse agenzie di cui accennavo prima. Allora, io direi di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Prima però voglio salutare Antonella da Napoli. Antonella, buongiorno. Buongiorno a lei. Questa casa non è un albergo. E noi torniamo insieme ad Antonella che ci chiama da Napoli. Antonella, buongiorno. Ribenvenuta. Grazie. Sono una madre di 3 figli, di cui 2 adolescenti. Sì. E da buona napoletana, grande rispetto della tavola, che per me, per una gran parte di noi napoletani, rappresenta proprio un punto fermo. Però puntualmente il momento della riunione a tavola e del cibo succede di tutto, succedono discussioni, come se si accendesse una spia, perché il momento in cui noi ci sediamo a tavola succede di tutto. Mi chiedo, come mai? Il problema, 2 figli adolescenti abbastanza irrequieti tutti e 2, però nonostante io ce la metta tutta a cercare di tenere questa tavola unita, però le discussioni discussioni sono sempre a tavola. Antonella, e poi davanti ad un bel timballo di maccheroni, ma come si fa ad avere voglia di litigare? Qua ci vorrebbe ancora, dovremmo richiamare Davide, Alberto. Ma io credo, Antonella, che quello che ci racconta è poi quello che dovrebbe da una parte succedere a tavola, cioè effettivamente forse i suoi figli vivono lo spazio della tavola come uno spazio in cui mettere alla prova la qualità delle relazioni familiari e... la cosa che dovremmo capire insieme adesso è se queste discussioni degenerano in un disordine, in un caos per cui non si riesce a tenere in mano il filo di niente. E poi l'altra cosa che mi piacerebbe sapere è il papà eventualmente a tavola di fronte a tutto questo litigare o discutere, che ruolo prende? Antonella. Il papà si arrabbia molto. Come tutti i padri, si arrabbia molto, però come se loro, nel momento in cui noi ci mettiamo a tavola, devono sempre innescare quel meccanismo per creare, o forse è il troppo rispetto della tavola, che forse a loro la tavola dà noia, io mi chiedo, forse è questo, il fatto che questa tavola sia talmente presente, talmente importante, non diventa un fatto... di tanto in tanto, la tavola viene sempre comunque rispettata, forse il troppo storpia, non lo so, mi chiedo. Lo chiediamo anche al nostro professor Paolicchi. Insomma, sembra che i ragazzi di Antonella, ma devo dire da mamma non sono i soli, aspettino proprio il momento di sedersi insieme a tavola per iniziare e scatenare le discussioni. Ma non è una risposta facile, se no perché dovremmo farci invitare da Antonella, ecco. La situazione. Devo dire che io confermerei comunque l'aspetto importantissimo anche del riunirsi intorno alla tavola. L'ho indicato come una delle strategie per i genitori anche nel mio libro. Può sembrare appunto qualcosa di formale, ma non lo è. L'importanza che l'ascoltatrice diceva viene data in certe culture può essere anche talvolta eccessiva, nella forma quasi di un rituale che diventa un po' pesante nella mentalità dei ragazzi di oggi. Ma aggiungerei due cose. Primo, partecipazione, il modo corretto di partecipare a questi momenti non si può certo apprendere nell'adolescenza, è qualcosa che dovrebbe essere appreso in anni molto più precoci, molto prima. Pensiamo che i gusti alimentari sembra che vengano addirittura stabiliti nei primi 18 mesi a seconda dei sapori che si gustano o meno. Il modo di stare a tavola credo che comunque entro i 3, 4, 5 anni dovrebbe già essere ugualmente appreso, proprio come un modo di stare insieme, non tanto di gustare dei cibi. E da questo punto di vista credo che, come ci risultava in quella comunicazione precedente, forse per certe cose non sono necessarie ricerche sistematiche da parte di istituti universitari, anche il buon senso ci ha sempre detto che nei momenti in cui ci si confronta poi il fattore più importante educativo per tutti quelli che partecipano alla situazione è l'esempio. E quindi credo che il modo in cui si discute, anche quando ci si confronta, sia soprattutto determinato dal modo in cui chi è più in grado di gestire, di muoversi correttamente, può mostrare agli altri. Anche un detto tradizionale dice chi più ne ha più ne metta, evidentemente. Ecco. Quindi Alberto, anche a litigare meglio stare a tavola. Certo, e direi ad Antonella allora due consigli concreti. Uno, provare lei a fare un contratto con suo marito e vedere se di fronte alle provocazioni dei figli lui riesce a non arrabbiarsi e a gestire con tranquillità quello che sta succedendo. Due, proverei a fare un gioco di potere ribaltato. I figli avranno il potere in tavola e dovranno gestire per 20 o 25 minuti a turno una cena uno, una cena un altro, una cena un terzo figlio, il clima che si genera a tavola. Quindi saranno dei veri e propri gestori dell'atmosfera emotiva che, con cui le persone stanno a tavola, potranno intervenire, fermare il papà se si arrabbia, un fratello se sta esagerando. La qualità dello stare a tavola non è responsabilità di mamma e papà, ma vostra a turno. Vediamo cosa succede nelle prossime due settimane. Antonella, ci racconti com'è andata? Quindi incarica i figli a ruolo di moderatore? Sì, di gestore del clima emotivo della tavola. Vogliamo andare invece a salutare Paolo, che ci chiama da Roma. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Salve, io voglio fare i miei complimenti. È un po' di tempo che vi aspetto, vi ascolto, perché insomma mi piace la vostra trasmissione. Ma che carino, Paolo. Fugge ogni intento pedagogico, questo è molto, molto, insomma, è un confronto più che un insegnamento. Questo piace molto. Allora, io vi ascolto da molto tempo, però soltanto da recentemente sono padre. E io trovo che uno dei luoghi della mia formazione siano state le cene a casa per i miei genitori, perché sono il primo figlio, genitori molto giovani, ho 35 anni, sì, e ho altri due fratelli, e io ricordo queste cene a casa. Mia mamma è casalinga, una donna straordinaria, che insomma, discussioni politiche infinite. Cioè, ci trovavamo con i giornali, discutevamo idee diversissime, ciascuno ha fatto i propri percorsi, e ho sviluppato insomma quell'attitudine negoziale, quell'attitudine, non dico al compromesso, ma alla mediazione, che poi può servire durante la vita. Scontri molto accesi, ma il legame di sangue è più forte di qualunque cosa, e quindi riesci a capire che arrivare ad un accordo può essere fondamentale. Quindi si impara a litigare anche in modo sano, Paolo. Sì, perché il mio padre, ad esempio, sa qual è la solita storia del padre un po' reazionario, conservatore, il figlio un po' più, come dire. Però poi si mediano le informazioni, siamo rimasti ciascuno delle proprie idee. Mio padre ha lasciato le proprie, ha conservato le proprie, io casomai le ho con l'età, le ho un po' più, come dire, moderate, però alla fine stimi quello che tuo padre gli diceva. Mi piace molto questa cosa. E io ora sono diventato padre. E naturalmente la situazione sociale è cambiata, nel senso che io e mia moglie lavoriamo entrambi fino a tardi la sera, e ho una figlia di 9 mesi. E allora, per conservare questa cosa, appena ha potuto ergersi in qualche modo eretta, sì, sul seggiolone, e lei mangia la sua pastina e noi la imbocchiamo naturalmente, mentre noi mangiamo a tavola, perché non ci sarà, spesso i bambini mangiano da soli, sì, o mangiano con i nonni, con la tata. Io non so, a me piace che mi affidi. Anche a me piace molto. Io voglio leggervi un messaggio. So che non è di grande conforto, ma io e mio fratello, ora ventenni, abbiamo iniziato ad andare d'accordo durante l'adolescenza, proprio coalizzandoci durante le violenti discussioni a tavola. Non so perché esplodessero o le facessimo esplodere proprio in quel momento. Credo soprattutto perché oggi è uno dei rarissimi o l'unico momento in cui tutta la famiglia è riunita, che consente un confronto diretto. In fondo, le litigate a tavola aiutano le relazioni a casa. Adesso mi proietto Alberto Pellai fra una decina d'anni e dovrà tenere a bada 4 adolescenti scatenati insieme a sua moglie. E ma devo dire che già adesso tenere a bada 4 bambini a tavola è impegnativo, ma proprio come diceva Paolo, io ho questo ricordo di me da bambino. Eravamo 4 fratelli che fino a una certa età abbiamo mangiato su un altro tavolo che non era quello dei genitori, proprio per praticità, perché mia mamma dover gestire il pasto di 4 bambini e poi quello del marito che lavorava, eccetera eccetera. Ecco, con i nostri figli abbiamo fatto una scelta diversa: pur in mezzo a una grande confusione, a tanta fatica, li teniamo a tavola con noi e diventano parte fin da piccolissimi della storia familiare, del convivio familiare anche a tavola. Io credo che Paolo abbia in qualche modo raccontato un'intuizione interessante. Se ce la facciamo, teniamo i nostri bambini al nostro tavolo fin da quando sono piccolissimi, e magari rilanciamo questo quesito anche agli ascoltatori: i vostri figli mangiano con voi o per praticità li fate mangiare in momenti separati? Avete l'impressione che questa scelta in qualche modo però comprometta un po' la qualità delle vostre relazioni, oppure no? E io poi volevo anche chiedere, sapere chi gestisce queste litigate, chi fa da arbitro, da paciere, se a casa vostra è la mamma, mamma, oppure se invece viene, il ruolo viene affidato al papà. Questa casa non è un albergo. Alberto, mi piace perché oggi siamo seduti a tavola e devo dire che il tema stuzzica anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, inviando tantissimi messaggi al 349-238-6666. Abbiamo chiesto chi tra mamma e papà fa di solito da paciere, e un altro dettaglio che vorremmo aggiungere è quanto durano in media le vostre cene. Un ascoltatore ci scrive: da noi il paciere era turno di mamma o papà in base a qual era il genitore più punto nel vivo. Nella discussione sulla politica mia madre mediava noi ragazzi e papà in quelle sulle questioni domestiche, quindi disordini, rientri tardi, i ruoli quindi si invertivano, e se lo scontro era totale la pace la metteva al caffè. Un SMS che ci dà un quadretto familiare, ma ci dice che tante volte le discussioni possono essere anche violente, vivaci, ma poi alla fine si spengono, no? Per fortuna durano poco e torna l'armonia familiare. Alberto, è proprio il cerchio che si crea in casa, a tavola, in famiglia, durante la cena. Credo che sia un cerchio che permetta anche l'accendere emozioni molto forti, e allo stesso tempo poi dentro al cerchio un'emozione così forte, attivata così intensamente, può anche trovare la sua soluzione. Sono anche molto incuriosita da Anna Luz da Pisa, perché mi ha portato sulla mia tavola con i miei bambini, perché quelle che hai raccontato tu sono litigi di alto profilo. Lei dice: sono io a gestire la conversazione a tavola, e poi aggiunge: quante patatine ho io, quante tu? Ai tempi bisognava contare per i nostri figli le patatine nel piatto, che è uno di quegli esercizi che sempre facciamo. Lei ne ha di più. Esatto. Professor Paolicchi, e lei come se la cava a casa? Dunque, io ho dei figli ormai che sono loro impegnati come genitori con i loro rispettivi figli. Quindi adesso lei se la ride, ma c'è stato un momento in cui toccava a lei. Devo dire che in realtà nella posizione di progenitore, come nonno, posso anche godere, diciamo, di una ripresa del rapporto con i bambini piccoli, che forse per la nostra generazione non è stata colta invece come occasione di formazione per entrambe le generazioni in questione, e quindi mi rifaccio piuttosto a una serie di osservazioni e di studi che ho avuto modo di fare su campioni più ampi di quelli che possono essere costituiti da esperienze personali o di poche persone conosciute. Sono assolutamente, perciò ci tengo a riconfermare sia l'importanza della scelta di stare tutti insieme a tavola anziché in tavole separate, e soprattutto dell'importanza che comunque le comunicazioni ci siano. Se queste diventano in qualche momento tese, diventano un confronto fra posizioni diverse, comunque sempre meglio che accada quello che vediamo ciò che accade quando qualche genitore si trova di fronte a comportamenti del figlio, appunto, magari riferiti a consumo di droghe o anche meno gravi, a cui di solito il genitore risponde: non lo sapevo, non avrei mai pensato. Il pericolo maggiore è quello dell'assenza di comunicazioni, non tanto del tono delle comunicazioni stesse. Come dice lei, professor Paolicchi, effettivamente nelle famiglie le parole peggiori sono le parole non dette. E sentiamo invece quali parole ha da dirci Aldo, che ci chiama dalla provincia di Como. Buongiorno Aldo. Sì, buongiorno. Beh, io ricordo che da giovane era che mio padre era un padre padrone. Sì. Burbero, asciutto, però dopo alla fin fine era molto buono. Sì. E noi non potevamo sederci a tavola se non c'era lui, e guai se noi arrivavamo dopo, io e mio fratello, tutti a tavola assieme. Inizialmente non c'era niente, poi partiva qualche discussione, anche un po' pesante certe volte. Sì. Però questo dopo i 16-17 anni. Prima no, perché si può dire che noi non potevamo parlare a tavola. Il padre padrone senta, non lo permetteva. Aldo, si ricorda, io mi ricordo che noi avevamo dei genitori che ci fulminavano con lo sguardo. È vero. Bastava uno sguardo e noi riuscivamo non solo a zittirci, ma a tirare indietro tutti i pensieri. Adesso, ecco, imparo. Addirittura mio padre, non neanche lo sguardo, bastava vedere come si atteggiava a tavola e già noi si capiva che aria tirava. Ecco, bastava guardarlo. Sì, bastava guardarlo. Diciamo che io ho cercato di non fare la stessa cosa con mia figlia, per dire. E diciamo che noi le discussioni le abbiamo a tavola, sì, solamente che tante volte è proprio mia figlia che fa da paciere, quella che ci dice no, adesso basta, non andate avanti. Vede, quanti anni ha sua figlia? 18. 18. Grazie Aldo, andiamo nella provincia di, non lo leggo, Nuoro. Salvatore, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. No, cioè a casa, al momento della cena o del pranzo, discussioni con i bambini, con mia moglie, diciamo, raramente ne succedono, ma dove non succedere con le bambine, sicuramente faccio io il paciere. E come ha detto lei prima, a me, a mie figlie, basta uno sguardo e sono subito zitte, anche se non sono un padre padrone, non è però, fatto male, è fatto benissimo. Allo sguardo che fulmina, però. No, a me basta uno sguardo, e con le bambine passa subito. E ripeto, non sono un padre padrone, niente, perché le bambine ogni volta che mi chiedono qualcosa cerco di fare tutto il possibile per... Ma quanti anni hanno, Salvatore, queste bambine? La piccola ne ha 11, la grande 15. Quindi sono già delle... Anch'io chiamo le mie bambine, ma in realtà una ne ha 20 e una ne ha 18, quindi... Quante cene riuscite a fare insieme in una settimana? Sì, sì. Come? Quante cene riuscite a fare insieme? Ma io adesso in questo periodo faccio camionista e ci vediamo 2-3 volte alla settimana. Ok, quindi più o meno una sera su due riuscite a cenare insieme? Sì, a capanzare, per esempio anche per il pranzo, la piccola rientra alle 13.40 all'incirca, la grande alle 12.30 alla scuola, aspettiamo sempre la grande per pranzare tutti insieme. Va bene, ci ha proprio portato un po' sulla sua tavola, Salvatore, e abbiamo intuito come stanno andando le cose. Continui a fare il papà e continui a cenare con le sue figlie, perché la ricerca della Columbia University dice che in questo momento, facendo così, la mamma e il papà non solo preservano proprio la qualità di vita delle loro figlie, ma tra l'altro questo aiuta a costruire una migliore relazione genitori-figli, cioè i figli parlano molto meglio dei loro genitori, più tempo hanno a disposizione a tavola nel conversare e nello stare in convivio insieme. Alberto, abbiamo anche anticipato che ci sarebbe piaciuto affrontare il tema del pranzo della domenica, che è un pranzo diverso da tutti gli altri, un po' perché in un giorno di festa arrivano magari anche i nonni, gli amici, i cugini, insomma la famiglia si allarga e ci sono appunto delle famiglie che approfittano proprio solo di quel giorno per ritrovarsi. Ha delle dinamiche differenti, ma la Columbia University sul queste pranzo della domenica, forse perché gli americani fanno il brunch. Oppure anche perché per gli americani è una fatica incredibile il pranzo della domenica, nel senso che vivono talmente lontani gli uni dagli altri, hanno proprio questa mobilità dentro al loro DNA familiare, per cui i figli sono molto lontani dai nonni, ed effettivamente la cena del Thanksgiving che c'è appena stata proprio questa settimana per loro diventa fondamentale, perché loro volano da qualsiasi posto degli Stati Uniti per ritrovarsi tutti insieme, perché forse è l'unica esperienza di pranzo della domenica. Pensa che loro riescono a fare. Poverini, com'è diversa la vita. Poverine, mi sembra. È una dire. Fatica, io credo proprio che sia una fatica. Quindi andate di ricerca sul pranzo della domenica. Che invitiamo i nostri ascoltatori a iniziare a scrivere questa sorta di libro di ricerca insieme a noi chiamandoci all'800 24 00 24. Di solito noi mamme ci mettiamo ai fornelli e il papà poco. Ma c'è un altro aspetto che a volte i papà ce l'hanno sottolineato, abbiamo ricevuto tanti sms, c'è un altro aspetto che fa molto a volte litigare le mamme coi papà su come si sta a tavola, che è legato al tema della televisione accesa o della televisione spenta. C'è una mamma che ci ha scritto che ha deciso lei di togliere la TV dalla cucina per preservare proprio lo spazio relazionale della cena. Ci sono anche alcune mamme che si stanno lamentando sempre tramite SMS dei loro mariti che non riescono a rinunciare al telegiornale, e quindi la cena di famiglia in realtà ha le doppie voci, quelle dei figli e dei familiari, ma anche quella degli speaker del TG che portano le notizie in casa. Allora, noi siamo pronti per dare un saluto al professor Piero Paolicchi. Ricordiamo il suo libro La variabile G, perché ci vogliono tanti genitori per non fare un imbecille. Professore, noi dovremmo aggiungere a conclusione della puntata di oggi: perché ci vogliono anche tante cene per non fare un imbecille. Certamente, e comunque momenti in cui appunto tra i due genitori si realizza una alleanza. In tutti i momenti in cui ci possono essere anche dei conflitti, è importante che né i figli né altri al di fuori della famiglia possano utilizzare il principio che già gli antichi romani avevano ben utilizzato, divide et impera, creare divisioni per riuscire a superare controlli, regole e buoni suggerimenti. Professor Paolicchi, grazie per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete come sempre aiutato ad affrontare un aspetto della nostra vita familiare. Alberto, noi ci sentiamo e ci vediamo in settimana, e poi prossimo sabato. Prossimo sabato. Buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.